Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. La Grecia ha intenzione di rinviare lunedì in Turchia il primo gruppo di 500 migranti secondo l'accordo raggiunto tra Ankara e l'Unione Europea. Ma intanto, con gli arrivi di migranti in aumento nuovamente nel Mediterraneo, arrivano nuovi fondi per l'Italia. Un altro 1,5 milioni di euro per il piano di rimpatrio assegnati dalla Commissione Europea all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Si tratta di un finanziamento ponte per assistere l'Italia fino a quando non metterà in piedi il suo programma di rimpatri volontari sotto il Fondo Europeo per Asilo e Migrazione, e salgono così a 22 i milioni extra assegnati al nostro paese dal 2014. Intanto si prova a stringere le maglie della sicurezza negli aeroporti. Gli esperti hanno deciso di anticipare la loro riunione per valutare l'introduzione di nuove misure di sicurezza, non solo all'interno ma già all'entrata degli scali. Sono riuniti in questi minuti ad Amsterdam, ma ne ha già parlato la commissario ai trasporti, indicazioni che comunque non saranno vincolanti. La sicurezza aerea in Europa è la più alta al mondo, ma nello stesso tempo, visto ciò che è successo a Bruxelles, sappiamo di dover fare di più. Così il commissario trasporti Violeta Bulc, poco prima dell'inizio del Comitato Europeo per la Sicurezza Aerea, convocato per oggi ad Amsterdam, in anticipo dopo gli attentati di Bruxelles, con il compito di valutare l'introduzione di maggiori controlli negli scali. E sì, perché di fronte al flop dell'intelligence e della cooperazione tra i 28, la sola risposta immediata sembra essere il rafforzamento delle misure di sicurezza. Sul tavolo del comitato c'è dunque l'opzione del modello stile Tel Aviv, spiegano fonti europee, con metal detector e controlli su biglietti e passaporti anche all'entrata degli aeroporti, più unità cinofile e poliziotti anche nei parcheggi. Si tratterebbe comunque di raccomandazioni e come tali per ora non vincolanti, visti anche i costi aggiuntivi pari ad almeno il 10%, le dimensioni molto variegate degli aeroporti europei e le perplessità da parte di chi sostiene che questi controlli aggiuntivi non farebbero che aumentare le code all'ingresso degli aeroporti, il che esporrebbe decine di passeggeri all'azione dei terroristi. In ogni caso, spiega il commissario, spetterà ai ministri tirare le conclusioni al Consiglio informale trasporti dei 28 che si terrà ad aprile, sempre ad Amsterdam, e poi a quello formale di giugno a Bruxelles. I will continue discussing this topic also with the ministers on the informal council that we have in April, and then that will be also the topic of the formal council in June. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'occasione è stata questa mattina la presentazione anche del rapporto sulla sicurezza sulle strade. Si muore ancora troppo sulle strade dell'Unione Europea. Nel 2015 le vittime sono state 26.000, come nel 2014, lontano dall'obiettivo che ci si è dati, vale a dire dimezzare entro il 2020 il numero di incidenti mortali record del 2010, oltre 35.000, con un costo sociale di 100 miliardi per morti e feriti su strada. Lo scorso anno, detto in altri termini, è come se l'Europa avesse speso quasi tutto il suo bilancio per rispondere a questa emergenza. La presentazione del rapporto è stata l'occasione per la commissaria europea anche di tornare sul tragico incidente in Spagna il 20 marzo scorso, in cui hanno perso la vita 13 studenti dell'Erasmus. This was a very tragic event and I can only hope that will not be ever repeated again. Sono davvero tragici eventi che spero non si ripetano più. Spetta alle autorità locali stabilire le cause degli incidenti e gli eventi che li hanno determinati, ha detto la commissario. Dall'altro lato, però, voglio sottolineare come i servizi di pullman in Europa siano sicuri. In tutta Europa abbiamo buone statistiche su questi servizi e anche per quanto riguarda la legislazione europea, tutte le precauzioni di sicurezza sono state prese. Cipro uscita con successo dal programma di assistenza finanziaria durato 3 anni. L'ufficialità è arrivata questa mattina. Il Fondo Salva Stati ha versato 6,3 miliardi di euro, oltre al milione di prestiti del Fondo Monetario Internazionale, programma cominciato ad aprile 2013. E restando ai dati economici, Eurozona sempre in deflazione a marzo, ma il tasso migliora e passa a meno 0,1% rispetto al meno 0,2% di febbraio, questo secondo la stima flash di Eurostat. Ci fermiamo qui, per il momento per l'Europa è tutto, ma come sempre l'appuntamento è questa sera ad Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.